Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Partiremo e parleremo anche dell'andamento dei nostri titoli di Stato. Oggi, infatti, come i nostri GR vi hanno già anticipato ampiamente, non solo abbiamo lo spread che è sceso a 248 punti, è la prima volta che la differenza tra quanto costa noi indebitarci rispetto alla Germania scende a questo livello dal luglio del 2011, data molto importante perché l'attacco allo spread italiano, ma anche spagnolo, ma soprattutto in quel caso all'Italia, quando l'Italia aveva uno spread più alto di quello spagnolo in maniera ingiustificata. Infatti adesso lo abbiamo più basso da oltre un anno, di circa 60-70 punti, ma dicevo, l'attacco famoso che poi portò alle dimissioni dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi a novembre partì proprio tra giugno e luglio, se uno va a vedere la curva degli spread. Ecco, vedere che è tornato a 248 punti chiaramente non è, lo dico subito prima di suscitare polemiche, non è merito dell'Italia in sé in senso stretto, c'è un calo complessivo in tutta Europa. L'iniziativa, l'abbiamo spiegato molte volte, più importante è stata quella di Mario Draghi nel luglio di quest'anno, dell'anno scorso, del 2012. Però detto questo, è innegabile che non solo lo spread scenda, ma anche il costo diretto per l'Italia di finanziare il suo debito sta calando. Lo dico perché oggi il Tesoro ha collocato 3 miliardi e mezzo di BTP, il tasso è ai minimi dal marzo del 2010. Voi direte, com'è che lo spread è ai minimi dal luglio del 2011 e il tasso del BTP dal marzo 2010? Per due motivi: intanto lo spread si calcola sui BTP a 10 anni, non quello a 3, ma soprattutto del riferimento è quello, l'equivalente tedesco a 10 anni e quello italiano a 10 anni, o quello spagnolo se uno va a guardare i bonus. Ma c'è anche un altro motivo: lo spread può calare o aumentare perché, diciamo, viene ritenuta più affidabile l'Italia e quindi cala la differenza tra quanto dobbiamo offrire noi per trovare finanziatori sul debito rispetto a quanto deve offrire la Germania, oppure perché sale leggermente il rendimento di quelli tedeschi. Siccome è una differenza, la Germania sta obiettivamente offrendo un po' di più, niente di grave, per trovare finanziatori sul suo debito, ed ecco spiegato anche il motivo per cui lo spread italiano cala. È chiaramente una differenza e quindi come tale va calcolata. Ancora interessante notare però che da quando Mario Draghi nel luglio, il 26 luglio del 2012, annunciò, lo abbiamo ricordato anche in questa settimana con quella famosa frase che poi magari riprendiamo, ce l'abbiamo? È già caricata? E allora sentiamo la famosa frase di Draghi quando disse: la Banca Centrale Europea farà tutto il necessario e vi assicuro che sarà abbastanza per difendere l'euro. Beh, poi vi do anche la differenza, quanto ha recuperato lo spread italiano da allora ad adesso. The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. Believe me, it will be enough. Credetemi, sarà abbastanza. Da allora sono 300 i punti che ha recuperato l'Italia. Valeva allora lo spread 545 punti, oggi 248. Ed è una buona notizia questa. Sicuramente ne parleremo dopo la borsa. Già ieri il Tesoro aveva collocato bot per 8 miliardi e mezzo con un tasso che era ai minimi dal gennaio del 2010, che vuol dire che, e concludo su questo fronte, che in questo momento l'Italia riesce a finanziare il suo debito, a trovare creditori, compratori del suo debito, pagando così poco come non accadeva dal gennaio del 2010 sui bot e dal marzo del 2010 sui BTP a 3 anni. E questo è un tema. L'altro tema riguarderà quello che sta capitando nel mondo del commercio, ma inteso soprattutto come il polso che viene misurato da chi gestisce i grandi gruppi della distribuzione italiana. Visto che questa settimana si è connotata per un dato drammatico sui consumi, la Confcommercio e l'Istat hanno certificato che i consumi negli ultimi mesi del 2012 e comunque complessivamente nel 2012 sono calati ai livelli più bassi dal secondo dopoguerra come calo, e comunque siamo tornati indietro di 10 anni. Con oggi inizia un ciclo di interviste con i leader dei grandi gruppi della distribuzione, non solo nella parte alimentare, quindi non solo supermercati o hard discount, anche nella parte abbigliamento, per vedere qual è, lo abbiamo già fatto 2 anni fa, ma mi sembra il caso di tornare sul tema, qual è il termometro che loro hanno. Devo dire che se uno gestisce un grande gruppo della distribuzione, che si chiami Carrefour, Esselunga, Coop o Coin, Rinascente, delle volte ha un polso e un termometro di quello che è l'andamento dei consumi e delle difficoltà delle famiglie anche più alto della stessa Istat o di analisi che arrivano sempre dopo. Ecco perché oggi partiamo con un ciclo di interviste su questo. In apertura avremo, perché torna con prepotenza, anche il nostro appuntamento sugli sprechi dell'amministrazione pubblica, in questo caso Regione Sicilia e i costi della politica, ma anche Regione Val d'Aosta, dalle Alpi al Mediterraneo. 349-238-6666 per i vostri SMS, Facebook per chi vuole scrivere attraverso i computer. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, per quello che riguarda la borsa, anche oggi Milano positiva, anche oggi Milano tra le migliori, anzi la migliore assieme a Londra, più 0,24% Milano, più 0,20% Londra, invariata l'America, più 0,10% Francoforte, leggermente negativa Parigi di uno 0,1%. È in rafforzamento l'euro sul dollaro a 1,3348. Mentre per quello che riguarda i titoli segnaliamo un calo su Pirelli, meno 3,82%, Finmeccanica meno 2,50%, Di Assori meno 2,30%, Campari meno 1,5% come Mediaset, Telecom Italia meno 1,20%, e invece bene Parmalat più 3%, Fiat più 1,90%, Mediolanum più 1,70%, Saipem più 1,5%, Enel più 1,30% come Impregilo. Venendo alle notizie di carattere internazionale, il Giappone, attraverso il premier Shinzo Abe, ha approvato un maxi piano per rilanciare l'economia nipponica. È un piano immenso, sono 170 miliardi di euro al cambio attuale, sono infatti 20.200 miliardi di yen. È il pacchetto più grande di spesa deciso dal governo giapponese dal 2009, quando prese le misure per fronteggiare il crack e le conseguenze del crack di Lehman Brothers. L'obiettivo, ha detto lo stesso Abe, è battere la deflazione cronica, aggiungere 2 punti percentuali di PIL e creare almeno 600.000 posti di lavoro. E la crescita, restiamo in Asia, perché la crescita economica cinese invece nel 2012 potrebbe avere superato l'obiettivo fissato dal governo al 7,5%. Secondo le prime stime, il vice ministro della Commissione di Sviluppo Nazionale, Xiang Xiaoqiang, la crescita quest'anno sarà del 7,7%. A segnalare che dopo una difficoltà iniziale dell'anno, la Cina ha ripreso a correre. Già ieri commentavamo i dati sull'export, molto molto buoni nel 2012 per la Cina. I dati ufficiali arriveranno comunque il 18 gennaio, ma sono migliorati sia la produzione industriale che gli investimenti che il commercio. Volete sapere quanto sta risparmiando l'Italia? Lo scrivete al 349-238-6666. dal calo degli spread. Beh, oggi il calcolo lo ha fatto il commissario agli affari economico monetari europei Olli Rehn. Ha detto l'Italia da questo spread dimezzato sta risparmiando 3 miliardi di euro. E poi un endorsement, come si dice in gergo, quindi in qualche modo un plauso al governo Monti da parte del commissario europeo Olli Rehn, perché ha detto il problema dell'Italia era che a settembre 2011 aveva politiche non coerenti con gli impegni di bilancio. Solo dal novembre 2011, ossia da quando è arrivato Mario Monti, ha avviato misure di consolidamento più solide e prudenti, e per questo sono scesi e i rendimenti dei titoli di Stato, delle obbligazioni, che facilitano il ritorno della fiducia. Parleremo anche di case, del mattone in case e mattone in Italia. Perché? Perché oggi si è saputo che nel terzo trimestre del 2012 l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie è sceso dell'1,1% in termini congiunturali, quindi rispetto al trimestre precedente, e del 3,2% rispetto all'anno prima. Ha pesato soprattutto il calo dei prezzi delle case già esistenti, non delle nuove abitazioni, però questo vale un po' in tutti i paesi, anche negli Stati Uniti è chiaro che il mercato delle case nuove tiene di più. Ma attenzione, perché è il primo calo anche su quelle esistenti dal 2010 di questa consistenza. Tra l'altro si registra comunque una leggerissima flessione anche in quelle nuove, e sarebbe, se confermata, poi la prima dal 2010. Per quello che riguarda sempre l'Italia, la UIL oggi ha diffuso i dati sulla cassa integrazione negli ultimi 4 anni. Ebbene, negli anni della crisi, tra 2009 e 2012, le aziende italiane hanno chiesto all'INPS oltre 4 miliardi di ore di cassa integrazione, il che significa che la cassa integrazione sta proteggendo oltre 500.000 posti di lavoro ogni mese. Vedo che alcuni vogliono sapere anche dell'inchiesta aperta dalle autorità americane sulla Boeing, sulla sicurezza del Boeing 787 Dreamliner, l'ultimo aereo prodotto dalla Boeing. Devo dire che i due nuovi modelli, sia quello della Boeing che quello dell'Airbus, non hanno avuto molto successo, perché l'Airbus, quello a due piani, ha avuto parecchi problemi prima di riuscire a essere varato, diciamo così, ma anche il Boeing 787. 5 incidenti nell'ultima settimana. L'indagine l'ha aperta appunto l'Agenzia Federale dell'Aviazione Americana. Le autorità americane dicono l'aereo è sicuro, ma serve una revisione. La Boeing ha detto di confermare la fiducia sul progetto Dreamliner. Vorrei vedere anche il contrario, però è interessante che un aereo praticamente appena uscito sia già sotto inchiesta dalla Commissione per il trasporto aereo americano. Infine, altre notizie arrivano dal mondo dell'auto nel suo complesso. Allora, la Cina è rimasta nel 2012 e per il quarto anno consecutivo il più grande produttore al mondo di auto, ma anche il più grande mercato per il settore automobilistico. Praticamente l'associazione cinese dei produttori di automobili ha fatto sapere che la vendita di auto in Cina nel 2012 ha toccato i 19 milioni e 300 mila pezzi, unità, registrando un aumento del 4,3%, ma in crescita anche la produzione del 4,6%, a record tutte e due, sia le vendite che la produzione. Sempre sul mondo dell'auto, però, la Volkswagen oggi ha fatto sapere di aver chiuso il 2012 con un nuovo record di vendite. Già ieri abbiamo ricordato come il 2012 sia stato un anno record per BMW e per Rolls-Royce, che appartiene sempre al gruppo BMW, ma anche la Volkswagen, 5.740.000 veicoli. Con una crescita nei veicoli venduti del 12,7%, solo sul mese di dicembre c'è stato un balzo del 30%. L'unica area in cui le vendite sono diminuite è l'Europa occidentale, con un meno 7%, 844.000 veicoli, ma escludendo la Germania, perché in Germania invece le vendite da sole sono cresciute dell'1,2%. Tant'è che il Financial Times dice: la crisi ha accelerato il dominio di Volkswagen in Europa. Le più colpite dalle difficoltà, scrive il quotidiano britannico del ciclo economico, sono Peugeot, Citroën e Fiat, che contano troppo sul mercato europeo e fanno pressione sui governi per limitare al minimo la perdita di posti di lavoro. Il Financial Times fa notare che Volkswagen sta per inviare un inequivocabile segnale agli altri costruttori, imbarcandosi in un piano triennale di investimenti per nuovi prodotti, stabilimenti e apparecchiature che vale 50 miliardi di euro. E sempre in tema di auto, per concludere, la Fiat ha presentato ai sindacati la proposta di un nuovo aumento mensile di 40 euro legata alle presenze per il 2013, mentre, secondo quanto riportano alcuni analisti, e lo riferisce il Wall Street Journal, il gruppo Chrysler varrebbe tra i 9 e i 13 miliardi e mezzo di euro, di dollari. E adesso torna, come annunciavo, la nostra rubrica, ahimè, una rubrica che vorremmo eliminare, sugli sprechi della pubblica amministrazione e soprattutto anche su come la casta cosiddetta politica, anche a livello regionale, riesca o non riesca a ridurre i suoi costi, con un cotè, con un'aggiunta particolarmente sgradevole, e ci riferiamo a quanto ha scritto oggi sulle 24 ore, perché quando, il sospetto ce l'abbiamo da tempo, ma molta o parte dell'inefficienza nelle regioni, in particolar modo meridionali, sia nella gestione della sanità sia nella gestione complessiva, dà un vantaggio diretto e immediato alla criminalità organizzata, nel caso della Sicilia alla mafia. C'è chi arriva a dire, in effetti il ragionamento non è di poco conto, che il rapporto causale possa essere l'opposto: è proprio la mafia avere interesse che la macchina amministrativa in quelle regioni, mafia, 'ndrangheta, camorra, funzioni così male. Abbassare non sarebbe più la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni non sarebbe più, ladri di Stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu. Partiamo dal nord, dalle Alpi, oggi arriviamo dalla Val d'Aosta a Lampedusa, perché nonostante il clima non sia dei migliori, i politici valdostani proprio non riescono a tagliarsi i privilegi. A ridosso di Natale la provincia autonoma, infatti, che è equiparata per status a una regione autonoma, ha approvato una legge che riduce il trattamento economico degli eletti, i contributi ai gruppi ed elimina i rimborsi per gli spostamenti. Pensate che bastavano appena 5 km di spostamento per averne diritto. Però è vero che gli stipendi non saranno più agganciati a quelli dei parlamentari, ma in compenso i consiglieri valdostani potranno tenersi stretto il loro vitalizio, che ormai è abolito in quasi tutte le regioni. L'unica concessione, il calcolo verrà fatto col sistema contributivo, che è meno generoso del retributivo. Pensate che i vitalizi ai consiglieri provinciali o regionali, chiamateli come volete, valdostani, costano alle casse della Val d'Aosta da soli 1,5 milioni di euro l'anno, che vuol dire 12 euro a testa per ogni abitante, bambini e neonati inclusi. È la cifra più alta d'Italia. Altro record della Val d'Aosta, il numero dei seggi, 35 seggi, uno ogni 3.700 abitanti. E quando qualcuno ha provato a chiedere la riduzione dei seggi a 27, la proposta è stata respinta con la motivazione che il numero previsto dallo statuto è congruo. Dalla Val d'Aosta a Lipari, perché, e quindi provincia di Messina, l'associazione temporanea di imprese composta dalla Siremonte e dalla Cigno Edizioni, quest'ultima gestita da Lorenzo Zichicchi, figlio dell'assessore regionale ai beni culturali Antonino Zichicchi, fisico ma adesso prestato alla politica, si è aggiudicata la gara da 2.500.000 euro indetta dalla sovrintendenza di Messina. Le cinque società escluse hanno presentato ricorso al TAR. L'appalto prevede l'adeguamento tecnologico e l'allestimento di strutture pubbliche per conservare ed esporre i contenuti artistici e culturali contemporanei e organizzare la rassegna Eoli e tappe di viaggio con artisti di fama internazionale. Le attività si svolgeranno a Lipari, Tindari e Filicudi. A parte, diciamo, l'impatto sul turismo di quelle delle isole Eolie, che è tutto da dimostrare, perché 2.500.000 non mi sembrano pochi, ma c'è un problema di opportunità. Lo dico perché a noi la giunta di Crocetta ha dato, anzi più volte l'abbiamo elogiata per quello che ha fatto, ma insomma non è opportuno forse che vinca un appalto una società in cui dentro c'è il figlio di un assessore. Se delle due l'una, o non fai l'assessore o non partecipi alla gara, insomma, così, ma come stile, a maggior ragione in Sicilia, no? Ma dappertutto comunque. E infatti, che cosa è successo? Dopo poche ore che la notizia era uscita, la società che ha vinto, quindi quella con il figlio di Zichicchi dentro, si è ritirata. Ci ritiriamo dalla gara, ha detto Lorenzo Zichicchi. Con questo atto chiudo il mio rapporto con la Sicilia, sono molto amareggiato e quasi disgustato. Speravo in cuor mio di perdere questa gara. E questo arriva il giorno dopo, invece, una bella notizia. Ieri l'abbiamo raccontata, il giudice del lavoro ha respinto il ricorso dei 21 capi redattori dell'ufficio stampa della regione, che avevano fatto causa contro la loro rimozione da parte del nuovo governatore della regione Sicilia, Crocetta. Però qui c'è una storia che invece è molto molto più seria, ahimè, e che scopre e racconta oggi Giuseppe Oddu sul Sole 24 Ore, in un ciclo di puntate sul Sole dedicate ai regio burocrati, oggi dedicata alla Sicilia, la settima puntata. Siccome è una storia pesante ed è molto seria, vediamo di alleggerirla con quel mitico Johnny Stecchino che ogni tanto usiamo, e poi vediamo di capire che cosa ha scoperto Giuseppe Oddo oggi sul malfunzionamento della macchina burocratica negli uffici di Palermo. Il sole, il mare, i fichi d'India, Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quelle che voi chiamate piaghe. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, e questa è veramente una piaga grave che nessuno riesce a risolvere. Lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella pezza, è più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Lei ha già capito, è inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È il traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. 15.000/16.000 istanze negli uffici di Palermo che aspettavano di essere esaminate, alcune dal 2006, e corsie preferenziali per amici e raccomandati. Questi racconti che ha raccolto Giuseppe Oddo andando a indagare sul perché funzionano così male gli uffici di Palermo. In regione migliaia di pratiche inevase per creare corsie preferenziali alla mafia, le richieste di autorizzazione delle imprese non venivano mai protocollate, nemmeno protocollate, cioè nemmeno con un numero da dire la esaminerò fra un certo periodo. Erano accatastate nelle stanzioni e perfino nei bagni. Pratiche illecite e corruttive che sono state in uso al Dipartimento Energia della Regione Siciliana negli anni d'oro degli eco-incentivi. Quelli in grosso odore di mafia, perché dovrebbero servire per sviluppare le fonti rinnovabili, però... Comunque, gli anni d'oro degli eco-incentivi vuol dire dal 2005 al 2011... Personaggi in odore di mafia a cui era consentito entrare e uscire da questi uffici, lo scopo qual era e l'obiettivo qual era, cioè perché vengono accatastate le pratiche degli imprenditori? Perché non si vuole lavorare? No. Perché non c'è tempo? No. Perché non c'è abbastanza personale? No. Alla Regione Sicilia sono in 19.000 dipendenti. E allora Giuseppe Oddo, perché? Buonasera. Ciao, buonasera a chi ci ascolta. Ma in pratica, l'hai detto tu all'inizio, è evidente che questo caos voluto, creato artatamente, è finalizzato a creare delle corsie preferenziali, perché non protocollare le pratiche sostanzialmente significa scavalcare l'ordine cronologico di presentazione e quindi sostanzialmente favorire determinate aziende, permettere a determinate aziende di arrivare prima, di accedere prima a determinati finanziamenti, poter realizzare prima determinati impianti che sono molto lucrosi, che per esempio nell'eolico possono generare utili nell'ordine di alcuni milioni di euro al mese, e quindi naturalmente significa, come dicevi tu, favorire gli amici degli amici. Questo, diciamo, è una situazione purtroppo molto diffusa nella regione siciliana, che, diciamo, la parte sana dell'imprenditoria siciliana denuncia da molto tempo, quando chiede appunto lo snellimento burocratico, la riforma, diciamo, dell'apparato burocratico della regione, ci si riferisce sostanzialmente a questo. Beh, è chiaro che la burocrazia, oltre che avere un costo indiretto e assurdo per le imprese, ha anche un effetto molto chiaro, cioè favorisce l'intervento, diciamo, non trasparente, non pulito, rendendo tutto più complicato. Non dico che spinga, ma agevoli la mediazione, la intermediazione, e la mafia questo fa nella vita, oltre che uccidere e taglieggiare, ricattare, media, intermedia, scopre un ruolo da questo punto di vista. Tu dicevi fino a 1,5 milioni di utili al mese, e il sì e il no all'approvazione e al via libera che deve dare che il Dipartimento Energia della Regione Siciliana, su questo si basa, perché da quel dipartimento dipende la costruzione di centrali elettriche da fonti alternative o rinnovabili. Quindi Giuseppe, l'imprenditore che avesse voluto attivare un impianto fotovoltaico o magari anche eolico, da lì doveva passare, giusto? Da lì doveva passare per l'autorizzazione finale, soltanto che c'era una procedura per cui l'iter autorizzativo comprendeva, diciamo, l'autorizzazione di altri 20 enti, e quindi naturalmente questi imprenditori che avevano le corsie preferenziali, la possibilità di accedere attraverso meccanismi clientelari, meccanismi corruttivi in tutti questi enti, si presentavano per primi al Dipartimento dell'Energia e per primi naturalmente poi ottenevano l'autorizzazione per realizzare questi impianti. Però, come dicevo, questa è una situazione molto diffusa, perché per capire il fenomeno mafioso in Sicilia forse sarebbe più interessante conoscere e indagare più da vicino gli uffici della regione, dell'amministrazione regionale, piuttosto che frequentare i palazzi di giustizia, dove spesso, diciamo, si hanno le conoscenze storiche del fenomeno. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commenteremo anche la borsa. Giuseppe Oddo, però, per concludere, non posso riassumere chiaramente la tua bellissima inchiesta, la settima puntata dell'inchiesta che il Sole 24 Ore sta conducendo sui Regio burocrati. Però insomma non c'è solo ahimè il tema delle centrali elettriche e dell'autorizzazione in centrali elettriche da fonti alternative rinnovabili e delle autorizzazioni a concederle, quindi in mano sostanzialmente spesso alla mafia. Ci sono tutto un insieme di pratiche dove le lungaggini burocratiche o addirittura i ritardi stratosferici della burocrazia altro non servono che a coprire poi l'intermediazione mafiosa. Esatto, questo un po' riguarda tutti gli uffici, o comunque la maggior parte degli uffici della regione. Pensiamo per esempio all'ufficio di valutazione dell'impatto ambientale, pensiamo, tu citavi appunto il caso dell'edilizia pubblica residenziale, ma anche le società partecipate dalla regione. Per esempio c'è una società che è la Multiservizi, una società regionale che recentemente è confluita in un'altra azienda, c'è stata una fusione. Ebbene, questa società pare che sia piena di persone, di parenti, di persone condannate per mafia in forma definitiva. I dipendenti di questa società sono stati fatti confluire in un'altra azienda con una procedura prima di licenziamento collettivo e poi di riassunzione, e sembra che in questo passaggio, diciamo, i fascicoli del personale proveniente dalla società madre vengono in questo modo annullati, e quindi non si può più risalire a chi ha voluto e ha firmato le assunzioni di queste persone. Ecco, ci sono delle zone d'ombra su cui bisognerebbe far luce. Io mi auguro che il nuovo presidente della regione era la domanda Crocetta, che avevo per te. Crocetta ha messo mano a questo, perché tu giustamente racconti come quando arrivò alla Direzione Generale dell'Energia nel 2011 Gianluca Galati, cercò di mettere ordine, poi a un certo momento stranamente l'hanno rimosso. Dimmi. Io penso che Crocetta appunto debba sbrigarsi a passare dalla fase degli annunci pre post elettorale a dei progetti operativi concreti, perché io penso che l'opinione pubblica lo aspetti al varco. Io penso che Crocetta sia una persona positiva, ha un passato, diciamo, di sindaco antimafia di Gela che depone a suo favore, però a questo punto, diciamo, bisogna passare dalle parole ai fatti, altrimenti tutti continueranno a pensare che dietro Crocetta ci sono i vecchi marpioni del PD che hanno fiancheggiato la giunta Lombardo e che oggi in qualche modo cercano di manovrare e di condizionare la sua politica, perché ricordiamo che Crocetta non ha una vera maggioranza parlamentare. Ecco, c'è un caso con cui chiudo, perché l'articolo poi va letto. Le case popolari, gli ACP, hanno venduto a prezzi del tutto trascurabili, pensate, tra i 5.000 e i 15.000 euro, appartamenti che in realtà ne valevano oltre 300.000, e si sono tenuti invece gli appartamenti fatiscenti, con la conseguenza che chi li ha comprati a 5 o 15.000 euro li ha rivenduti subito dopo a 300.000 euro con un bel guadagno. Fammi indovinare, a chi li hanno venduti questi appartamenti a 10-15? Questo non lo sappiamo, però è certamente singolare, insomma, che i funzionari, che gli apparati, diciamo, pubblici che dovevano controllare questa situazione non abbiano fatto niente, ma addirittura, appunto, io ho scritto anche di alloggi che sono stati assegnati senza che l'assegnatario abbia firmato il contratto. Il risultato è che l'assegnatario non paga l'affitto e che poi al momento delle elezioni c'è il funzionario collegato al politico e naturalmente va a chiedere il voto a queste persone. Ecco, sono questi meccanismi clientelari, no, che creano i varchi pericolosi in cui naturalmente si inserisce la mafia, si inserisce la politica corrotta. :17:47, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Partiamo subito dalla borsa. Oggi, devo dire, giornata fotocopia abbastanza di quelle delle ultime sedute, in cui Milano continua a crescere di poco, 0,40, 0,20, 0,30, ma continua a crescere. E però invece la vera notizia, a mio avviso, oggi riguarda i titoli di Stato. Borsa. Più 0,30% la migliore, Londra fa più 0,20, Francoforte invariata, Parigi invariata, bene Parmalat oggi, cambiamo un po' i titoli, più 3,30%, male invece Pirelli, meno 3,44%. Parmat e Pirelli, Guido Maurino, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera, sì, per quello che riguarda Parmat non ci sono grandi notizie di mercato, si tratta soprattutto di ragioni tecniche legate al superamento di quota 1,8 euro per azione. Il titolo è arrivato ai massimi dell'ultimo anno e fra scambi oltretutto anche piuttosto sostenuti rispetto alla media. Per quello che riguarda Pirelli, meno 3,44%, invece c'è un pochettino la preoccupazione sul prezzo dei pneumatici per il prossimo anno. Il 2012 dovrebbe essersi chiuso in modo positivo, ma gli operatori si attendono che per la prima volta dopo 10 anni i prezzi dei pneumatici potrebbero scendere il prossimo anno, e questo è andato a ripercuotersi un pochettino su tutti gli operatori del settore. Anche Michelin ha chiuso in calo, anche Continental ha chiuso in calo, quindi è stato un po' un calo generalizzato di tutti i produttori di pneumatici. Allora, la notizia del giorno però oggi riguarda come notizia il gruppo Impregilo, perché ha ceduto quello che ancora aveva in portafoglio della brasiliana Ecorodovias a BTG Pactual. Quanto ha incassato? Ha incassato 193 milioni. E che vuol dire valorizzare l'intera partecipazione? Per 925 milioni netti complessivamente. Il titolo? Il titolo oggi è andato bene, ha guadagnato l'1,17%, anche perché adesso gli operatori si aspettano un maxi dividendo, qualcuno scommette che potrebbe essere addirittura di un euro per azione. Ricordiamo che il titolo vale 3,8 euro, quindi insomma sarebbe veramente un maxi dividendo, era una cosa un pochettino nell'aria, quindi il titolo non ha strappato eccessivamente, però insomma una solida performance oggi. Ancora tra i titoli, Telecom Italia Media, qui potremmo, se vogliamo, raccontare in borsa lo scontro di ieri Santoro-Berlusconi, nel senso che come va TL Media, da un lato, che è proprietà della 7, e invece anche Mediaset. Sì, diciamo che se lo guardiamo sotto questa luce, ieri la trasmissione ha fatto ascolti record per la rete, la 7, 8,7 milioni, uno share del 33,59%. Chi ne ha approfittato in borsa non è tanto Telecom Italia Media, che ha guadagnato un più 0,19%, quanto piuttosto la concessionaria di pubblicità, la Cairo Communication, più 2,57%. Se lo guardiamo dal fronte invece di Berlusconi, Mediaset ha sì perso l'1,63%, ma arrivava da una lunga striscia di rialzi, ieri aveva fatto più 7%, e dallo scorso 10 dicembre, quando l'ex premier Silvio Berlusconi ha annunciato la sua ricandidatura, il titolo Mediaset ha guadagnato quasi il 40%. Migliori e peggiori, vi do altre variazioni, ma non sono tantissime oggi. Fiat più 1,90%. Mediolanum più 1,90, Enel più 1,5, Saipem più 1,30 come Mediobanca e Luxottica, Impregilo più 1,20, Autogrill più 0,90. Tra chi perde, Finmeccanica, qualche realizzo dopo la corsa di nuovo sulle speculazioni per Ansaldo Energia, meno 2,40, Diasorin meno 2,30, Mediaset appunto meno 1,60, Campari meno 1,40, Telecom Italia meno 1,20, dicevamo, e anche Steam Microelectronics, Enel meno 1%. Migliori peggiori in assoluto, IKF più 31%, Fidia più 21%, Exprivia più 14%, peggiori in assoluto Crespi meno 5,60%, VRWay Communication meno 6,85%, D-Mail Group meno 7,70%. Grazie e buon fine settimana ai colleghi di Radio Cori sulle 24 ore, grazie a Guido Maurino, e adesso invece parliamo di titoli di Stato. Lo ricordavamo in apertura, lo spread è sceso sotto i 250 punti, vuol dire che siamo ai livelli più bassi come spread, come differenza tra noi e la Germania dal luglio 2011, da quando è partito l'attacco, diciamo, all'Italia, in quel caso più ancora che alla Spagna. E quanto al rendimento dei BTP a 10 anni, siamo ai minimi dall'autunno del 2010. Molto bene oggi l'asta di titoli di Stato, anche oggi bene, anche ieri. Oggi il Tesoro ha collocato 3 miliardi e mezzo e ha dovuto offrire poco, poco rispetto all'asta di dicembre, l'1,85%, ossia un rendimento più basso dal marzo 2010. Ieri, per collocare 8 miliardi e mezzo di bot, il Tesoro aveva dovuto offrire solo lo 0,86%, anche qui rendimento minimo dal gennaio del 2010. Moria Longo, del Sole 24 Ore, buonasera Moria. Buonasera a tutti. Perché sta scendendo lo spread? Perché ho capito l'effetto Draghi, l'abbiamo detto mille volte. Abbiamo visto anche rialzarsi leggermente il rendimento dei titoli tedeschi, perché lo spread può scendere o perché peggioriamo noi o perché noi restiamo fermi, ma peggiora tra virgolette la Germania. E quali sono gli andamenti della curva? Perché mi sembra che tutto, per fortuna, si stia raffreddando quanto ai rendimenti. Si sta più che raffreddando, diciamo che sul mercato finanziario il 2013 è iniziato all'insegna dell'euforia vera e propria. Ricordo che non soltanto gli spread sono i minimi, ma Piazza Affari è ai livelli massimi dall'agosto 2011, la borsa di Londra sui livelli del 2008, la borsa di New York è quasi sui massimi storici e così via. Se andiamo a vedere le obbligazioni emesse da aziende, i corporate bond cosiddetti, quelli con rating bassi, quindi quelli più rischiosi, a livello globale hanno rendimenti più bassi, sono scesi sotto il 5% di rendimento medio, il minimo da prima della crisi. Insomma, c'è domanda su tutto, anche titoli che rendono poco hanno forte domanda. Qualche giorno fa è emesso un bond, il nuovo fondo salva stati ESM, aveva un bond un rendimento negativo, cioè chi lo comprava pagava, eppure ha avuto una domanda tre volte passa superiore all'offerta. Questo cosa vuol dire? Che c'è una forte euforia sul mercato, gli investitori hanno tanti soldi, tanta liquidità, che tutta la liquidità pompata dalle banche centrali, non solo dalla BCE ma anche da quella americana, da quella giapponese che sta facendo politiche molto espansive e così via, hanno tanti soldi da investire, li investono soprattutto in titoli con rendimenti un po' più alti, quindi comprano soprattutto titoli dei paesi cosiddetti periferici come l'Italia o la Spagna, o obbligazioni con bassi rating, quindi con rischi più alti ma anche rendimenti un po' più alti. Questo sta abbassando i rendimenti di tutti i mercati obbligazionari. Il problema, secondo me, è che di fronte a questa forte euforia sui mercati, io la chiamerei proprio così in questi giorni, non corrisponde, secondo me, altrettanta euforia sull'economia reale. È la puntata che abbiamo fatto l'altro ieri, nel senso, cercando di capire come mai da un lato avessimo un crollo dei consumi, il peggiore dal dopoguerra, e dall'altro la borsa stesse festeggiando, il paese reale e il paese finanziario l'abbiamo chiamata. Hai ragione. C'è una spiegazione che ogni tanto gli analisti danno, la borsa anticipa. Io non ho capito che cosa stia anticipando, però, perché qua fino all'ultimo in borsa ci sono troppi soldi. Il problema, secondo me, è questo. C'è tanta liquidità che si è fermata sui mercati finanziari, si è fermata in banca, il credito alle imprese, il credito alle famiglie scende. Ieri Mario Draghi ha detto che in Europa c'è stato un calo di 4 miliardi di credito netto alle imprese. La liquidità c'è, ce n'è tantissima, ma resta tutta lì, come un imbuto un po' otturato. Il problema è questo. Sì, tu ricordavi quale alto sia il ruolo delle banche, che in questo momento preferiscono mettere i soldi nelle obbligazioni che non in borsa, e o magari aggiungo io anche che prestarli agli imprenditori. La curva sui 10 anni di BTP, quindi è una curva che sta continuando a scendere, la curva dei rendimenti. Sì, la curva sta scendendo, la curva nel senso tutte le scadenze dei titoli di Stato italiani stanno scendendo, i bot, l'hai detto tu prima, sono addirittura andati allo 0, quasi un tasso tedesco come nome, i decennali sono bassi, c'è stata forte domanda sui BTP trentennali, perché poi gli investitori adesso hanno voglia di rischiare, di comprare qualcosa che dia rendimento, e quindi vanno sui rischi sempre maggiori, quindi vanno sulle scadenze più lunghe, trentennali e così via. Addirittura si dice che ci possano essere emissioni anche aziendali da parte della Grecia, di aziende greche, ci sono state molte emissioni da parte di società spagnole, insomma le imprese, gli emittenti ne approfittano perché c'è tanta domanda, quindi cercano di raccattare tutti i soldi, tutti i finanziamenti che possono adesso sui mercati. Il problema è capire se effettivamente i mercati stanno anticipando un miglioramento futuro oppure se è un eccesso. Sì, che c'è comunque un eccesso di liquidità, cioè non si sa dove mettere i soldi, non ci si fida della borsa, non è più così rischioso investire sull'euro e anche sui paesi periferici, ecco che arrivano i flussi. Moria? Faccio solo un esempio, in Spagna le banche stanno vendendo molte loro attività perché fanno il cosiddetto di leveraging, stanno riducendo la loro attività, quindi vendono, non so, filiali o comunque attività. Ecco, con la liquidità incassata non sanno cosa fare e stanno comprando titoli, per cui uno dei motivi per cui sulla Spagna c'è tanta domanda è anche questo, mi dicono alcuni economisti, per cui